Linee d'ombra di Matteo Caccia. Come avere un anello per tanto tempo attorno a un dito, quando poi te lo levi dopo tanti anni, continui ad accalciarti il segno, anche se sai che l'anello non c'è più. Era come se una mano avesse strappato di colpo la tenda che separa l'adolescenza dall'età adulta. Eccoti servito, benvenuto nella realtà, giovanotto. Storie di sparatorie e di lettere mai scritte in una puntata che si intitola Il giorno in cui sono diventato grande. Non avevo ancora 13 anni la prima volta che vidi un essere umano morto. Fu nell'estate del 1959, molto tempo fa, ma solo misurando il tempo in termini di anni. Vivevo a Castle Rock, una piccola città dell'Oregon. C'erano solo 1281 abitanti, ma per me era il mondo intero. Credo che sia arrivato il momento di rivederlo, questo film. Se non l'avete visto, è arrivato assolutamente il momento per vederlo. Sto parlando di Stand By Me, un film di ormai una... credo 25 o forse 30 anni fa, credo sia degli anni 80, c'era una River Phoenix giovanissimo ed era la storia di questi quattro ragazzi che di fatto passavano quella linea d'ombra che li separava, che separa l'adolescenza dall'età adulta. Stand By Me era tratto ovviamente da uno dei quattro racconti contenuti nel libro di Stephen King che si intitola Stagioni Diverse, che è un ottimo modo, se avete voglia di passare un po' di tempo, per passarlo in questi giorni. E linee d'ombra, è molto strano andare in onda a raccontare, continuare a raccontare storie in un clima come quello che viviamo, però noi siamo convinti che rilasciare una piccola pillola di un'ora di storie ci possa aiutare anche a passare questo momento. Lo dicevamo qualche tempo fa, le storie sono un ottimo modo per tenere alto il morale, no? È quello che succede quando ci si trova intorno a un tavolo e c'è qualcosa che non va, o soprattutto quando, se avete esperienza di barca, no? Succede proprio, magari c'è brutto tempo, il tempo è uggioso, o magari peggio, c'è una tempesta come quella che stiamo passando in questi giorni. Allora ci si chiude dentro, si aspetta che passi e si raccontano storie. Se qualcuno è bravo, canta anche delle canzoni e magari più tardi ne sentiamo qualcuno che canta una canzone. Il giorno in cui sono diventato grande, si intitola questa puntata di Linee d'ombra. Sembra in realtà una metafora per un asineddo, che credo che si dia, una parte piccola per un tutto più grande, cioè sembra che in realtà il titolo sia l'anno in cui siamo diventati grandi, pensando a come è cominciato questo 2020. Abbiamo due storie oggi che vi raccontiamo. La prima è la storia di Giorgio, che sembra veramente uscito da un film, sembra uscito da, o meglio, da un episodio di una serie televisiva che racconta come la malavita in qualche modo possa incidere nella nostra vita, nelle nostre vite, soprattutto quelle più giovani. È un episodio che è come una scheggia che ti entra nella testa e non ne esce più. E la seconda storia invece è una lettera che una sorella scrive allo spacciatore che ha venduto l'ultima dose alla sorella che è mancata qualche mese prima. In tutte e due le storie di fatto c'è quel confine. Linee d'ombra racconta questo, racconta delle storie che hanno in mezzo un passaggio, che hanno in mezzo una linea che separa un prima e un dopo, ed entrambe proprio il confine è quello, è diventare grandi, e probabilmente è anche il confine piuttosto largo, devo dire, che stiamo valicando in questi giorni e in queste settimane. Se avete voglia di ascoltarci, vi chiedo di fare solo una cosa, di mettervi comodi, alzare un pochettino il volume. Cominciamo, benvenuti a Linee d'ombra. Correva l'anno 1992. E come tutte le estati, da quando io ne avessi memoria, passavo i miei mesi estivi sul litorale salentino, in una piccola località di nome Casalabate, che d'inverno era praticamente deserta, ma che durante l'estate raccoglieva tutta la comunità dei comuni limitrofi, nel bene e nel male. Io, di padre pugliese e madre ligure, mi sentivo molto più legato alle mie origini leccesi di quanto fossi in realtà, perché era in quei torridi mesi che io crescevo. Facevo le mie esperienze in completa libertà. Ma dal 14 agosto di quell'anno, del 1992, la mia vita non sarebbe più stata la stessa. Mauro, nonostante la parentela lo relegasse a cugino di secondo grado, per me era come un fratello. Abbiamo foto insieme da quando gattonavamo con i pannolini fino alle impennate sulle strade deserte con le moto o agli improbabili tuffi dalle scogliere più disparate. Eravamo letteralmente sempre insieme. Era una di quelle persone che ti suscitava rabbia, invidia e ammirazione nello stesso tempo. Avete presente quegli individui che riescono a fare meglio di te in un paio d'ore quello che tu hai imparato a fare in anni e con orgoglio? Persone che riescono bene praticamente in tutto, ma non lo fanno mai pesare a nessuno, anche quando se lo meriterebbe. Che sono belli, sono tra i primi della classe, ma che davanti ad un torneo di ping pong tra amici non c'è ragazza che tenga. Ecco, Mauro era così. Io andavo in Puglia solamente d'estate, però era una sosta sempre lunga, come si faceva una volta, essendo praticamente coetanei, passavamo tutto il tempo insieme. Appena c'era un attimo di libertà dalla famiglia, noi stavamo insieme, qualsiasi cosa l'abbiamo fatta insieme. Siamo cresciuti anche solo per pochi mesi all'anno, però sempre insieme. Erano circa le 11 di sera. Una serata un po' fiacca, a dirla tutta. Ci stavamo annoiando, perché il movimento sul lungomare andava scemando rapidamente. Non ricordo perché lui non avesse la sua moto, ma poco importa. Sarebbe stupido dire che se ce l'avesse avuta non sarebbe successo niente. Anche un colpo di vento in più avrebbe potuto farci perdere un secondo sufficiente ad evitare il tutto. Però non c'era una bava di vento, purtroppo. Prendemmo la mia moto e ci dirigemmo verso casa, e nel rettilineo della sua abitazione, circa 800 metri prima, una macchina ci precedeva. Nel momento in cui tentai di superarla, la macchina zigzagò per non farci passare. E allora rimasi dietro, pensando se conoscessimo quella macchina o se per caso ci fosse qualcuno. Ma in quei due secondi sentì un botto. Il classico petardo da Capodanno. Nei miei stupidi 19 anni pensai: ma guarda sto deficiente che ci butta contro i petardi. Poi la macchina fu illuminata da un lampione e vidi una pistola che usciva dal finestrino. Era puntata verso di noi. Ora fui io a zigzagare, mentre rallentavo. Però ci furono altri due colpi, e dopo l'ultimo, nelle mie orecchie sento ancora oggi quelle parole. Mi ha colpito, non mi sento più le gambe. Portami a casa. Furono le sue ultime parole. Non feci più di 200 metri prima di arrivare al cancello di casa sua. Lui stava già gorgogliando ed era già accasciato su di me. Mi fermai, feci cadere la moto per cercare di sorreggere lui, ma non ci riuscì. Suonai il campanello, suo padre uscì in mutande e quando vide suo figlio per terra, mi guardò nello stesso modo in cui guarderesti il diavolo appollaiato sul tuo letto a fumarsi una sigaretta. Le uniche parole che dissi furono: «Ci hanno sparato, mi dispiace». Caricò il corpo in auto e partì verso l'ospedale di San Pietro Vernotico. Non avrei mai più rivisto nessuno di loro due. Non vidi una goccia di sangue da nessuna parte, ma solo dopo scoprì che il proiettile lo aveva colpito vicino alla gola, vicino alla clavicola, e tutto il sangue ce l'avevo io nel giubbotto. Quando arrivò all'ospedale se n'era già andato. All'inizio sembra un film, sembra qualcosa di impossibile, sembrava qualcosa che comunque avrebbero dato un ciak, avrebbero detto ok, questa è andata bene, registriamo pure. E invece no, io sono rimasto lì e c'era anche la mamma di Mauro che non aveva neanche il coraggio di guardarmi. Piangeva, guardava per terra, si è andata a sedere e io non sapevo cosa fare. Presi la moto e cominciai a cercare quella macchina viaggiando a velocità folli. Per fortuna non riuscii nel mio intento. Al mio ritorno c'erano già diverse macchine dei carabinieri che mi presero e mi portarono a Lecce. Ero furente e frastornato. Era come se una mano vecchia e ossuta avesse strappato di colpo la tenda che separa la tarda adolescenza dall'età adulta. Eccoti servito. Benvenuto nella realtà, giovanotto. Spintonai un PM. Ovviamente mi ammanettarono. Mi interrogarono per tutta la notte, prima di capire che ero veramente estraneo alla sacra corona e ai loro affari. Il piccolo seme della vendetta si insidiò dentro di me e crebbe per molti anni. Decisi che per farmi giustizia da solo l'unica strada che potevo prendere era quella di mettermi dalla parte dei buoni. Quindi entrai nei carabinieri, anche se solo per 2 anni. Ma stranamente la giustizia in quel caso mi anticipò. Ci fu un maxi processo in un'aula bunker dove la mia testimonianza fu più che altro un atto dovuto, perché i capi di imputazione e le prove erano già sufficienti per comminargli l'ergastolo. Inutile dire che Mauro mi accompagna ancora oggi, ma ricordo lui, non quello che me l'ha strappato via, perché il fatto di per sé è così assurdo da trascendere la realtà. Ora, dopo 28 anni, la rabbia è stata sostituita da un onnipresente senso di amarezza. Perché per 1 centimetro io sono destinato a non poter essere in nessun modo quello che lui sarebbe stato. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. the cancer grow. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. È stata una buona occasione per Luca Micheli per recuperare The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, uno dei pezzi che più o meno tutti quelli che partono con la chitarra cominciano a suonare quando fanno gruppo nelle estati che non sono le estati terribili come quella di Giorgio. Pronto, ciao Giorgio, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno, buongiorno. Come stai in questo periodo? Dove ti trovi? Cosa fai? Sei a casa? Lavori? Lavoro, faccio il lato trasportatore, quindi mi tocca lavorare. Quindi non puoi fermarti. No, cioè, al momento sono fermo per fare con te, però no. Certo, quello lo immagino, intendo dire che non puoi fermare la routine, no, del lavoro. Senti, no, Giorgio, ma esattamente che cosa è successo? Cioè, è stato uno scambio di persona, è stato un gioco macabro, non voleva che li superaste in motocicletta, cos'è successo? No, niente di tutto questo. Lui, chiamiamolo il soggetto, ne veniva da un altro omicidio. Cioè, nella stessa serata? Sì, un'ora prima. Ok. Un'ora, 2 ore prima. E quindi una volta, non so se tu sai, o comunque lo si vede anche nei film, le moto di grossa cilindrata erano usate soprattutto da, insomma, gente che magari... Ti sentiamo un po' male, Giorgio, purtroppo, però ho capito, intendi dire che, diciamo, lui ha scambiato la moto di grossa cilindrata per qualcuno che voleva regolare i conti. Chiarissimo. Ora pensate di anticipare le nostre morte. Senti, per quale motivo tu non hai più rivisto nemmeno il padre di Mauro? Bella domanda. Io non ho avuto il coraggio di farmi avanti per primo, e loro, comunque, io sapevo che loro mi tenevano responsabile. Ecco, perché questa è la cosa che volevo chiederti: in qualche modo loro pensano che tu abbia qualche responsabilità, o lo pensavano? Sì, non li biasimo, perché comunque, sì, va bene, la mano non è stata la mia, ma diciamo se... Va bene, sono luoghi comuni, ma se non ci sono stato io, la moto, il lungomare, tutto questo, non mi ritenete responsabile. E anche se col tempo, comunque, magari la rabbia è andata scemando, il dolore, poi tutti abbiamo preso strade troppo diverse per ricongiungere. Ma tu ci vai ancora in quel paesino in Puglia, in Salento? Sì, ci ho portato la mia famiglia per fargli vedere... Dove vivevo, certo. Dove mio padre ha costruito la casa, dove, però soggiornarvi no, non ci sono mai più stato. Senti, e poi ti saluto, in che modo, so che è una domanda che sembra un po' banale, un po' difficile a corrispondere, in che modo questo evento ha cambiato la tua vita? Cioè, tu che persona sei diventata dopo quello che è accaduto? Non lo so, forse qualcuno dice più forte o con... tra virgolette più quello sullo stesso, ma io non credo che sia quello. Io credo una persona più preparata a che botte ti può dare la vita. Chiaro. Agli imprevisti e agli schiaffi della vita. Che puoi prendere inaspettate. Giorgio, ti ringrazio moltissimo per la storia e per questa telefonata. E grazie anche per quello che fai in questi giorni, per te e i tuoi colleghi, che continuate a fare avanti e indietro e ci permettete, a chi può permetterselo, di rimanere a casa e fare tutto quello che può, cioè rimanere a casa. A presto, Giorgio, in bocca al lupo per tutto. A presto. Ciao Matteo, ciao. Lui è Tom Waits, I Don't Wanna Grow Up, si intitola questo brano in una puntata che invece si intitola Il giorno in cui sono diventato grande. Ora sentiamo Le borse in diretta, poi raccontiamo di nuovo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Nadia Bowser è un'autrice e una scrittrice americana che 5 anni fa ha perso la sorella che era tossicodipendente. Da allora lei sta lavorando a una sorta di memoir che ha l'intenzione di raccontare proprio il rapporto che aveva lei con la sorella. Inizia così. Nel 2015 33.091 persone sono morte per overdose negli Stati Uniti. Mia sorella è mancata il 31 luglio del 2015, aveva 44 anni. Penso spesso al suo ultimo giorno e a come sono stati i suoi ultimi momenti. E penso anche alla persona che le ha dato i farmaci che hanno messo fine alla sua vita. Ecco cosa potrei dire a quella persona se mai io e lei ci incontrassimo. In questa puntata di Linee d'Ombra, che si intitola Il giorno in cui sono diventato grande, la prossima storia è proprio la lettera che Nadia Bowser ha scritto allo spacciatore che ha venduto l'ultima dose, la sua sorella. State con noi. Caro spacciatore, come va? Immagino che tu sia un uomo, perché la maggior parte delle persone che chiamavano giorno e notte mia sorella e che cercavano droga erano uomini. Dato che non so il tuo nome, ti chiamerò semplicemente spacciatore. Tu hai avuto l'impatto più grande e più terribile sulla vita di mia sorella. L'hai uccisa. Al liceo, all'apice del movimento che si chiamava Just Say No, di semplicemente di no, alla fine degli anni Ottanta, ci hanno insegnato che i ragazzi che facevano uso di droghe erano dei deboli. Semplicemente non riuscivano a dire di no. Eppure le persone che vendevano la droga avevano un certo potere e quindi avevano fascino. Sì, gli spacciatori erano pericolosi, ma anche un po' sexy. Ma immaginarti spacciatore così, ora, con la stessa reverenza, sarebbe ingenuo. Sono grande ormai. Conosco i tossicodipendenti. Molte droghe mi sono girate intorno in questi anni. Quindi conosco molto bene il vostro mondo. Abbastanza bene, diciamo, da sapere che la maggior parte delle persone che vi chiamano per la loro droga probabilmente vi chiamano il mio spacciatore. Un po' come ci si riferisce alle altre persone utili nella nostra vita. Il mio meccanico, il mio parrucchiere, il mio medico, il mio dentista. E tu come la chiamavi? Mia sorella Sasha, dico. Spero che tu non l'abbia mai chiamata Sash, perché quello era il modo in cui la chiamavano molte persone che l'amavano, e trovo difficile credere che tu l'amassi. L'hai chiamata per nome? Oppure l'hai chiamata signorina? O forse le hai creato un soprannome, tipo Viola, il colore della sua auto? La stessa auto in cui, secondo la polizia, è stata trovata nel parcheggio di un ristorante di pesce a largo dell'autostrada. Quando è morta io ero incinta di 7 mesi. E pensa, quando ho partorito, i medici mi hanno dato lo stesso farmaco che l'ha uccisa per alleviare il mio travaglio che è durato 46 ore. Mio marito ha dovuto prendere da parte il medico e pregarlo di non dirmi che stava per iniettarmi lo stesso farmaco che aveva tolto la vita a mia sorella. E quel farmaco gliel'avevi dato tu, il farmaco che lei ha mischiato con l'eroina, il fentanyl. Sai che penso a te in continuazione, quasi ogni giorno. Tu sei l'unico che sa alcune cose molto importanti su come è mancata mia sorella. Quindi sento di meritare di conoscerti. Mi merito almeno 5 minuti del tuo tempo. Potresti essere l'ultima persona che l'ha vista viva e sono un po' gelosa, sai? Tu sei ancora vivo? Sì, sento che lo sei. E sono un po' arrabbiata per questo. Ma se scoprissi che tu sei morto, potrei essere arrabbiata allo stesso modo. Don't know just where I'm going. But I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. Put a spike into my vein, and I tell you things aren't quite the same. When I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. upon my life. 'Cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death. Now you can't help me, not you guys, or all you sweet girls with all your sweet talk. Per me è molto importante che tu capisca di chi era la vita che hai distrutto. Sasha era la migliore della sua classe al liceo. Poi ha studiato psicologia a Yale e ha conseguito due master in assistenza sociale e sanità pubblica. Una volta per Halloween si è infilata in un costume da Batgirl in pelle, fatto da lei in casa. Conosceva i nomi della maggior parte dei senzatetto di New Haven. Un giorno organizzò una gita per i suoi clienti per portarli a vedermi recitare Shakespeare in un parco. È stata lei a regalarmi i gusti musicali che ho oggi, da Johnny Mitchell a Funkadelic. Ah, Sasha era una cavallerizza incredibile. Le sue gambe erano potentissime. Si divertiva a stringermi nella morsa, una mossa ispirata da quelle dei lottatori di wrestling. Mi avvolgeva le sue gambe muscolose intorno alla vita e mi stringeva quasi fino a non permettermi di respirare. La sua voce era singolare. Sapevi che sarebbe arrivata prima ancora di vederla. Il suo funerale era pieno di persone che dicevano che lei aveva reso la loro vita più piena, migliore. Il direttore del coro gospel con cui ha cantato fino alla sua morte ha creato un nuovo verbo in suo onore, Sashify, che significa infondere esuberanza. E tu, chi sei? Conoscevi abbastanza bene Sasha da definirla amica? Sei una delle persone con cui ha parlato e con cui si è messaggiata al suo ultimo giorno, per caso? O sei l'ex fidanzato, quello che continuava a molestarla? Dimmi chi sei. Eri con lei quando è morta? Dicono che entrambi i finestrini dell'auto fossero abbassati quando è stata trovata. Eri sul sedile del passeggero? Che è successo? Ti sei spaventato e sei scappato? Nel mondo della droga c'è un sistema di baratto e reciprocità che spesso rende difficile capire chi è lo spacciatore e chi è il cliente. Mia sorella vendeva droga per altri spacciatori, come dimostrano le note sul retro della sua agendina con le iniziali delle persone. E quanto le dovevano e quanto lei doveva loro. Molte volte il suo pagamento era costituito da droga gratis. Quando è stata trovata morta nella sua auto, aveva solo 5 centesimi nel portafoglio. Non si trattava di un business, si trattava di sopravvivenza. Ti lascio con questo pensiero. Ho fatto i conti e dall'11 marzo 2018, giorno in cui se n'è andata, io ho vissuto più a lungo della mia sorella maggiore, che è nata 2 anni e mezzo prima di me. E questo non ha senso. Hai mandato l'universo fuori rotta, quindi fottiti. Fottiti perché probabilmente tu sei ancora qui e non ci sarà mai un'altra lei. Penserò sempre a te, tua per sempre, la sorella. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me as you lay down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know and I'll sing in your ear again. the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. This baby. Loro sono i Verve, ovviamente un pezzo di ormai 20 anni fa, si intitola The Drugs Don't Work, le droghe non funzionano. Invece la storia che vi abbiamo raccontata l'abbiamo trovata sul Times e si intitolava Che cosa vorrei dire allo spacciatore che ha dato a mia sorella la sua ultima dose fatale di eroina. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con delle belle storie di rinascita. Linee d'ombra. Ne parlavamo poco fa con Paolo Corleoni, con Anita Panizza, con cui ci siamo visti oggi, anche noi, insomma, cercando di rimanere il più a casa possibile, veniamo qui al lavoro il meno possibile, poi insomma, le prossime puntate le sentirete da casa mia con dei rumori di casa, come già sta accadendo per moltissimi dei conduttori. Quindi ci siamo visti dopo qualche giorno e ci dicevamo, in questi giorni in cui siamo tutti chiusi in casa il più possibile, quanto i messaggi audio, WhatsApp, ci stanno aiutando a non solo tenere alto il morale, ma a scaldare il nostro morale, la nostra giornata, perché un conto è scriversi un messaggio, un conto è scriversi una mail, ancora peggio, ma altro invece, altra cosa è farsi le telefonate, un WhatsApp, vedersi in faccia, ma l'audio, e d'altra parte insomma facciamo radio anche per quello, ti permette di scaldare proprio la temperatura emotiva che c'è dentro di te o in quella stanza. E noi abbiamo deciso di raccontare, oltre alle storie che continuiamo a raccontare quotidianamente qui a Linee d'Ombra, l'avete sentita poco fa quella con cui abbiamo aperto, la storia di Giorgio, noi stiamo però anche provando a raccontare in qualche modo questo tempo strampalato che stiamo vivendo. E uno è un modo molto semplice ed è un diario della vostra quarantena. Se avete voglia di condividere con noi come state passando queste giornate un po' di traverso rispetto al solito, lineedombra@radio24.it. Se continuate a lavorare in un modo diverso, se siete a casa con i figli, eccetera, eccetera. Una pagina, mezza pagina. L'altro invece è proprio il tentativo di usare gli audio. In questo caso gli audio li usiamo tramite profili Instagram e Facebook, perché il WhatsApp di Radio 24 è inondato di messaggi, faremo fatica a ritrovare i vostri. Quindi se avete voglia di partecipare, noi stiamo raccogliendo degli audio tramite appunto il mio profilo Instagram personale Matteo Caccia o il profilo Facebook di Linee d'Ombra, tramite aprite il messaggio e cliccate sul microfono e ci raccontate una storia. Che storie stiamo raccontando? Stiamo raccontando piccole storie di rinascita, delle volte in cui la vita è andata storta, delle volte in cui qualcosa sembrava non essere dritto, sembrava avere fallito e poi ci riprendevamo, un amore che finiva, un lavoro che andava male e poi un giorno la vita ricominciava. E il primo messaggio con cui apriamo, il primo audio, la prima storia audio con cui apriamo ce l'ha mandata Nicola, che ci racconta addirittura di una piccola tartaruga che si sveglia dal letargo. Da quando circa 10 anni ho una tartaruga che si chiama Mirtilla e ogni anno, come tutte le tartarughe, Mirtilla va in letargo, vive sul balcone di casa dei miei genitori e niente, ogni anno quando ero più piccolo mia mamma sempre mi diceva guarda che Mirtilla si è svegliata, era sempre intorno al 20 di marzo, qualcosa del genere. Solo che da quando ho 16 anni io non vivo più con i miei genitori, adesso ne ho 23. E giovedì scorso sono tornato a Cremona perché non sapevo bene dove stare in questa situazione di emergenza. E proprio mentre ieri hanno proclamato la quarantena, il primo giorno di quarantena, mia mamma era sul balcone, io ero in casa e mi ha detto guarda una cosa, ha scoperchiato il velo del suo recinto e mi fa Mirtilla si è svegliata. Erano anni che non vedevo la mia tartaruga svegliarsi dal letargo ed erano anni che non vedevo mia mamma che me lo diceva. Di solito mi chiamava o mi mandava una foto o lei o mio papà, ed è stato bello che per una volta sia successo che l'abbia visto dal vivo. Piccole storie di rinascita si chiama questo piccolo spazio audio che abbiamo creato qui a Linee d'Ombra. Se avete voglia di partecipare raccontandoci la vostra piccola grande rinascita, appunto dopo una malattia vi siete risvegliati, o una malattia di una persona cara, avete semplicemente guardato fuori, c'era un bel sole, avete capito che la vita ripartiva, potete mandarci un messaggio audio tramite Instagram in privato sul mio profilo Instagram Matteo Caccia, oppure profilo Instagram Facebook mio, oppure del programma Linee d'Ombra. Però c'è un altro messaggio, un altro piccolo audio che vorrei farvi ascoltare, perché davvero gli audio ci stanno aiutando a stare vicini, anche le persone che vivono in città e in città lontane. E questa mattina ci è arrivato su una delle chat di gruppo di cui tutti quanti siamo pieni, è arrivato un audio di un nostro amico che ci diceva: a me stamattina è arrivato questo. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia. Lei si chiama Luisa ed è la mamma di Paolo, questo mio amico, che questa mattina ha deciso, in questo momento difficile, vive a Piacenza lei tra l'altro, quindi è una delle città più colpite, in questo periodo complesso ha deciso di svegliare suo figlio, sua figlia e le sue amiche più care con questo audio, con questa canzone, perché in fondo anche cantare tiene alto il morale e noi pensiamo che possa veramente aiutare a continuare a vivere e a ridere delle follie del mondo. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Mandateci il vostro audio con la vostra piccola storia di rinascita, le raccogliamo e le mettiamo tutte insieme. Usate Instagram se avete voglia sul mio profilo, oppure usate Facebook, sempre il mio profilo Matteo Caccia, oppure il Facebook diretto di Linee d'Ombra. Credo si possa mandare l'audio solo tramite il telefono, se non sbaglio, tant'è comunque, insomma, trovate il modo per mandarcelo. Una piccola storia di rinascita che racconta un momento in cui avete ritrovato la vita, la voglia di vivere, la voglia di continuare ad andare avanti, perché arriverà, ci vorrà tempo, bisognerà tenere duro, bisogna far passare la tempesta, ma ovviamente arriverà. Noi intanto andiamo verso la fine di questa puntata e vi raccontiamo l'ultimo pezzo della nostra storia di oggi, la nostra storia seriale, che è la storia di Anna Maria, che Anna Maria ha raccontato a Mauro Pescio, in cui appunto condivide tutta la sua esperienza legata al cibo. È l'ultimo pezzo di storia seriale che è dedicata a un vizio capitale, in questo caso è dedicata alla gola, ed è incredibile come lei ci racconti che il dover per forza essere a tutti i costi la migliore per lei passava anche attraverso il cibo. mandi giù e mantieni una sorta di fase zen, per cui tu continui ad essere sempre brava, brava, brava, devi fare la brava, devi fare la bravissima, poi vai a scuola e diventi bravissima. E poi vai a lavoro, cioè come esco da scuola, il mio desiderio sarebbe stato di continuare e frequentare l'università, avrei frequentato molto volentieri filosofia e storia, anche soprattutto storia medievale, però significava stare in casa ancora per un po' di anni, nonostante io facessi lavoretti, facevo la cameriera, cioè fine settimana lavoravo sempre, ho sempre cercato di essere minimamente autonoma, e quindi sono andata a lavorare immediatamente in un'azienda lì vicino. Appena presa la maturità, ho cominciato a lavorare seriamente in questa azienda. Avevo 19 anni e avevo già la patente. Per me la patente rappresentava un'emancipazione che mi sognavo fino a poco tempo prima. Il giorno del mio 18° compleanno l'ho passato in motorizzazione per prendere il foglio rosa. 4 mesi dopo avevo la patente. Inizio a lavorare con un contratto di 3 mesi, ma grazie all'esempio di mio padre sapevo come muovermi. Allo scadere dei 3 mesi mi prolungano il contratto di altri 6 e dopo 6 mi inseriscono in un'altra azienda con una promozione importante. Avevo imparato da mio padre come si faceva. Il suo spirito imprenditoriale in questo frangente mi è stato molto utile. Cioè, quando entravo in un'azienda, la prima cosa che facevo, anche fuori dagli orari, era quella di osservare tutti gli ambienti di lavoro. Conoscere i dipendenti, quali erano le loro abitudini, studiare a fondo i miei colleghi più stretti e gli orari dei fornitori. Facevo tutto questo per capire cosa potevo fare per migliorare quella situazione. Magari non mi era nemmeno richiesto, ma lo dovevo fare per me stessa. Osservavo più di tutti i miei superiori. Volevo imparare tutto per arrivare ad essere più brava di loro nel minor tempo possibile. Ogni cosa che facevo, la facevo al massimo. Perché io dovevo essere sempre la migliore, dovevo essere sempre la... Non dovevo avere nessun tipo di macchia. Nessun tipo di macchia. La macchia, che è stata un ulteriore momento di duro, momento duro, diciamo, è avvenuto proprio in quel luogo che io consideravo puro, che era appunto la biblioteca. Continuate ad ascoltarci, continuate a scriverci e a raccontarci tramite gli audio. linee d'ombra@radio24.it per mandarci le vostre storie, domani puntualissimi per raccontare. Ora la linea al GR, ci sentiamo domani, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!